Se ci pensi un istante soltanto, se poi guardi al di là del tuo naso, ci potresti trovare per caso quello che non t'aspetti ne sai, e scoprire che il mondo pur vecchio ha un profumo diverso ogni giorno, tutti stretti in un giro tondo con il naso all'insù. E gira, gira, non ti fermare mai. E gira, gira, sei già lontano ormai. Se chiudi gli occhi, io non ci vedo più. Sei lì, col naso all'insù. E gira, gira, non ti fermare mai. E gira, gira, sei già lontano ormai. Se chiudi gli occhi, io non ti vedo più. Sei lì col naso all'insù. Sei già lontano ormai. Se chiudi gli occhi, io non ci vedo più. Sei lì col naso all'insù.